Ines, nei vostri paesi chi è che aveva la motoretta o la macchina? Nessuno? Dottore. No, da noi c'era solamente la macchina dottore. Di piazza, quella verde e nera, dottore. La Barilla. Se dovevi andare da qualche parte, ordinavi il taxi, che era la Barilla. Ma lei stava a Rovereto, quindi era già una cittadina bella grossa. Beh, sì, d'accordo, però l'unica cosa che c'era... Mio papà, che faceva il vigile, per servizio aveva la bicicletta. Un vigile con la bicicletta e la pistola. Adela, vuoi dire te chi è che c'era nel paese che aveva la macchina o la moto così? Nessuno. Che nessuno? Sappia io, neanche il dottore? Il dottor Venturi. Il dottor Venturi, qua, eh? Aveva la moto, una bella moto abbastanza grossa. E come che era bravo, veniva subito lui con la sua moto. Anche a me sono arrivata io nel 79. Il dottor Artini e veniva col motorino. Altro che macchina, ancora l'ora. E dopo parte qualche video fuori, i ragazzi non si immaginano neanche cosa stanno negli anni del fascismo. La vita che si è fatta con Mussolini e a Hitler.